L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Lodo Berlusconi, può essere questo il sottotitolo della puntata di oggi dell'ottavo giorno, condizionata dalla settimana di passione del Premier stretto a tenaglia tra la condanna per il lodo Mondadori di sabato scorso e la bocciatura del lodo Alfano da parte della Consulta, che invece è arrivata mercoledì. Naturalmente questo non ci impedirà di ricordare altri fatti eclatanti della settimana, ne dico uno per tutti: il Nobel per la pace assegnato al presidente Barack Obama, e su questo voglio dire subito la mia opinione. Credo che sia un premio quantomeno prematuro, insomma più alle intenzioni che ai fatti compiuti di Obama. Comunque auguri e complimenti per questo premio. Dicevamo, la politica e Silvio Berlusconi, indubbi protagonisti incontrastati della settimana che va da sabato scorso 3 ottobre a venerdì 9 ottobre. Naturalmente riascolteremo i servizi più importanti e i commenti della settimana estratti dai GR di Radio 24. Cominciamo subito tornando a mercoledì, a pochi minuti dopo le 18, quando finisce l'attesa, per certi versi messianica, della sentenza della Consulta sul lodo Alfano. Ricordo, la legge che fa da scudo alle quattro più alte cariche dello Stato. Sentiamo Raffaella Calandra e poi a seguire il commento di Stefano Folli giovedì mattina nel GR delle 7. Illegittimo perché la legge è uguale per tutti, come è scritto in tutte le aule dei tribunali. È una norma così che per le quattro alte cariche dello Stato faceva da scudo ai processi, non si può introdurre per strade ordinarie. La Consulta dunque boccia in pieno il lodo Alfano dopo una camera di consiglio lunga un giorno e mezzo, e lo fa per 3 voti, 9-6. Una differenza minore rispetto al pollice verso dei giudici per l'analogo provvedimento del lodo Schifani. Ma ora, come 5 anni fa, la Corte torna a dire che queste leggi violano il principio dell'uguaglianza dei cittadini, uno dei cardini della Costituzione scritto nell'articolo 3. Tra le possibili strade, questa era la più temuta da Palazzo Chigi, perché un'eventuale correzione, stavolta per via costituzionale, richiederebbe una doppia lettura delle Camere e una maggioranza qualificata. Insomma, tempi lunghi, mentre i processi a carico del Premier, da cui erano partiti i 3 ricorsi arrivati alla Consulta, riprenderanno presto. A cominciare da quello Mills per corruzione in atti giudiziari. L'avvocato inglese è stato condannato a 4 anni e domani per lui comincia l'appello, mentre la posizione di Berlusconi era stata stralciata e ora dovrà essere giudicato da una corte diversa da quella presieduta da Nicoletta Gandus, che si è già espressa sul coimputato. Vicino alle battute finali al processo sui diritti televisivi Mediaset, mentre non è stato accolto il ricorso del GIP romano chiamato a decidere sul rinvio a giudizio del Premier per la presunta compravendita dei senatori all'estero. Nel limbo, in un'ufficiosa attesa della Consulta, c'era anche l'inchiesta milanese Mediatrade per appropriazione indebita. Il PM ha pronto l'avviso di chiusura d'indagine. Questo è il momento dei nervi saldi, è il momento di guardare alla Costituzione come al cemento dell'unità del Paese. È il momento in cui io credo che il Presidente del Consiglio debba misurare bene le sue mosse, perché spingere il Paese verso elezioni anticipate in un momento di difficoltà economica come l'attuale sarebbe un errore politico, ma sarebbe anche devastante dal punto di vista istituzionale, perché vorrebbe dire fare elezioni anticipate contro la Corte Costituzionale, quindi contro le istituzioni nel loro complesso, reclamando una sorta di investitura che smentisca di fatto la Costituzione, perché a questo punto di questo si parla. Sarebbe, io credo, un gravissimo errore che costerebbe caro al centrodestra. Mi sembra che ci siano personaggi nel centrodestra, compreso lo stesso Bossi, che è vero che ha detto una frase effetto, ma Bossi va interpretato. Bossi ha sempre detto in questi giorni che bisogna fare le riforme e non bisogna sostanzialmente fare le elezioni anticipate. Mi sembra che lui, che è il più importante alleato di Berlusconi, sia intenzionato a far proseguire la legislatura, a far funzionare una maggioranza che rimane, che è ampia. È chiaro che questa non è la bocciatura del governo, è una bocciatura di una legge fortemente voluta dal Presidente del Consiglio, quindi sicuramente è una sconfitta personale di Berlusconi. Però sul piano politico si possono vedere molte strade. Quella delle elezioni anticipate probabilmente è la più sbagliata. Il clima era incandescente prima della sentenza, lo è ancora di più subito dopo, prosegue anche in queste ore, insomma, con incredibili fuochi d'artificio. Berlusconi è andato subito all'attacco, è intervenuto a Matrix, a Porta, anche ieri si è scagliato contro i giudici, ha detto di essere il leader politico più perseguitato della storia. Ma forse in questi giorni più del lodo Alfano, per Berlusconi risulta pesante la sentenza sul lodo Mondadori arrivata sabato scorso, che mette in ballo una cifra pesantissima, 750 milioni di euro. Sentiamo allora i dettagli della sentenza in questo servizio di Raffaella Calandra. Un maxi risarcimento per la guerra di Segrate. Quasi 20 anni dopo l'inizio della battaglia sul controllo della Mondadori, il Tribunale Civile di Milano condanna la Fininvest al pagamento di 750 milioni a favore della CIR di Carlo De Benedetti. Sentenza sconcertante, attacca Marina Berlusconi. Dopo le condanne definitive al processo Lodo Mondadori, anche la causa civile, dunque, arriva ad un primo verdetto. I giudici calcolano in 750 milioni il danno subito dal gruppo di De Benedetti per perdita di chance, scrivono, dovuta ad un giudizio non imparziale a cui va aggiunto il danno d'immagine. Il riferimento alla sentenza del 91 che, ribaltando il lodo arbitrale, tolse la Mondadori a De Benedetti assegnandola a Berlusconi. Un verdetto che poi un lungo iter processuale con le condanne a Previti, al giudice Mette e agli avvocati a Campora e Pacifico ha stabilito essere frutto di corruzione in atti giudiziari e per questo la CIR ha mosso causa civile alla Fininvest che ora preannuncia appello. Non posso non rilevare che la sentenza, noto il presidente Marina Berlusconi, cade in un momento politico particolare che dà ragione ad un gruppo editoriale che attacca il Premier. L'ottavo giorno. Torniamo a concentrarci sulla settimana politica appena trascorsa. Naturalmente tutto ruota attorno a Berlusconi, al lodo Alfano, al lodo Mondadori. Sono subito partite le speculazioni sul presente e soprattutto sul futuro. C'è chi parla di elezioni anticipate, chi vorrebbe un governo tecnico. Sullo sfondo c'è stato un importante incontro tra Bossi e Fini, che di fatto sono d'accordo per proseguire con questo governo almeno fino alle regionali del 2010, quindi della prossima primavera, che se vogliamo è una sorta di vero e proprio test, sarà un referendum ancora una volta su Berlusconi e sulla tenuta della sua leadership. Qualcuno però vorrebbe anche un futuro, già forse lo immagina, con al centro, lo dico in tutti i sensi, Luca Cordero di Montezemolo. È un caso, ma nelle stesse ore della sentenza della consulta sul lodo Alfano, l'ex presidente di Confindustria e presidente della Fiat a Roma presenta la sua associazione. Sentiamo Savino Gallo. Negli ultimi giorni lo ha detto più volte, ma ieri, nel corso di un convegno organizzato dalla sua associazione Italia Futura, ha voluto ripeterlo. Luca Cordero di Montezemolo non ha alcuna intenzione di fondare un partito politico. Da quando si è cominciato a parlare di Italia Futura, devo dire, sono state fatte anche una serie di ipotesi che vorrei definire fantasiose, che identificavano la nostra associazione come il laboratorio segreto di misteriose alchimie partitiche, e io penso che sia francamente inaccettabile. La nostra associazione, ha continuato il presidente Fiat, è solo un pensatoio che vuole avanzare proposte su tanti temi, dalla mobilità sociale, argomento affrontato ieri, alla scuola, dall'ambiente alla sanità pubblica. Insomma, solo idee condivise, proprio come sottolineato nel corso del convegno anche da Gianfranco Fini. C'è bisogno di abbandonare la logica del derby perenne, ha concluso il presidente della Camera, ma non ho in mente nulla, né grandi coalizioni né un partito con Montezemolo. Di fronte all'evolvere convulso, concitato, dei fatti della settimana, sembra ormai lontanissima la manifestazione di solo 7 giorni fa, di sabato scorso, per la libertà di stampa organizzata a Roma. In piazza a seguire la manifestazione per Radio 24 c'era Elisabetta Fiorito, sentiamo la sua cronaca. Una piazza gremita, spiccano le bandiere del PD, IDV e della sinistra extraparlamentare, volano i palloncini della CGIL, assenti, CISL e UIL. Piazza del Popolo è stracolma per la manifestazione per la libertà di stampa. Il segretario della Federazione Nazionale, Franco Siddi, spiega il perché del corteo. Liberare l'informazione, liberarla dagli ostacoli, dagli impedimenti, dalle minacce, dalle intimidazioni. Presente tutta l'opposizione, ma dietro il palco Partito Democratico e Italia dei Valori sono divisi sulla questione Quirinale e si rincorrono accuse e controaccuse. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, firma il decreto sullo scudo fiscale, un atto di viltà per Antonio Di Pietro. Lo scudo fiscale è l'utilizzo di capitali di provenienza illecita. Il capo dello Stato l'ha avallato, me ne dispiace, mi dispiace di questo gesto pilatesco. Immediata la risposta del segretario del Partito Democratico, Dario Franceschini. Non rovini l'unità di questa piazza, il Presidente della Repubblica ha dei compiti che sono stabiliti dalla Costituzione e li svolge in modo ineccepibile e incontestabile. Ma Di Pietro insiste. Io penso invece che Berlusconi sta al governo perché c'è tanta finta opposizione. Bisogna notare però che mentre la politica discute di lodi vari o anche di libertà di stampa, purtroppo la crisi incombe pesantemente in Italia come nel resto del mondo e Bruxelles mercoledì apre una procedura sul nostro deficit. Sentiamo i dettagli con Valeria De Rosa. Nella lista dei paesi contro cui si apre la procedura per deficit eccessivo ci siamo anche noi, assieme ad altri 8 che nell'anno in corso sforeranno il tetto del 3%, tutti colpiti dalla crisi finanziaria e dalle misure messe in atto per contenerla. Sebbene i livelli di disavanzo siano di natura eccezionale perché conseguenza della grave recessione economica, afferma la Commissione, in questi 9 paesi gli squilibri non sono né prossimi al valore di riferimento né temporanei. Fatte le dovute addizioni, sono 20 su 27 i paesi europei con una procedura aperta. Per alcuni lo sforamento nel 2009 supererà il 10%. E anche per questo la procedura non preoccupa il Ministero dell'Economia. Rispetto a quello degli altri paesi, il livello del deficit dell'Italia non è tra i più alti, nota via 20 settembre. Per la Commissione, però, oltre ai problemi di deficit eccessivo, l'Italia deve vedersela con la debolezza strutturale della sua economia, che va avanti dagli anni 90 e che continuerà a incidere sulla crescita, con il risultato, ribadisce Bruxelles, che la ripresa rischia di essere molto lenta. Abbiamo lambito, stiamo cominciando un po' a toccare tematiche più prettamente economiche, allora credo che sia giusto ricordare qui all'Ottavo Giorno un pilastro della politica economica ma soprattutto sociale di questo paese, ovvero Gino Giugni, padre dello Statuto dei Lavoratori, che scompare domenica all'età di 82 anni. Ecco un ritratto firmato da Alessio Maurizi. Era un uomo libero, intelligente, arguto, generoso. La sua onestà e genialità intellettuale ha fatto sì che le sue indicazioni si sono rivelate in realtà sempre equilibrate. Il rispetto deriva da questo. Così Pietro Ichino e Tiziano Treu ricordano il loro maestro Gino Giugni, il riformista. Una parola abusata, ma mai come in questo caso spesa bene. Chi è un riformista se non quello che per tutta la vita cerca, propone soluzioni condivise e efficaci ai problemi del lavoro? Padre dello Statuto, ispiratore degli accordi contro l'inflazione. Tanto riformista Giugni da tirarsi addosso nell'83 le pallottole delle Brigate Rosse, nemiche giurate delle riforme, come accadde poi per Tarantelli, D'Antona e Biagi. Ma cosa colpisce oggi di una figura come quella di Giugni? Il fatto di essere uno di quegli uomini che, pur partendo da un punto di vista forte, quello dei lavoratori, del socialismo, si impegnano per trovare equilibri, per dare alle idee gambe forti con cui camminare. Un uomo di parte, ma non fazioso, insomma. Merce rara, anzi rarissima di questi tempi. E visto che siamo dentro al tema, al clima anche economico, è giusto, ci tengo insomma a riproporvi una copertina andata in onda ieri nel GR delle 7 firmata da Alessandra Schepisi, che tocca un tasto fondamentale, cioè la crisi che attanaglia moltissime persone, sempre più persone nel nostro paese, che a quanto pare galleggiano sopra o sotto, a seconda dei casi, la soglia della povertà. Sentiamo la Schepisi. Pane, pasta e latte sì, frutta e verdura con parsimonia, carne e pesce praticamente banditi. Del resto, cosa può comprare una famiglia con meno di 222 euro al mese? A vivere sotto la cosiddetta soglia di povertà alimentare è il 5,3% delle famiglie, 3 milioni e mezzo di italiani che non riescono a riempire il carrello della spesa e ad avere una dieta che non sia di semplice sopravvivenza. I più colpiti, gli anziani e le persone sole, come i separati che non possono permettersi, dopo aver pagato l'affitto, anche un pasto come si deve. I dati sono di una ricerca realizzata dalla Fondazione per la Sussidiarietà, il presidente Giorgio Vittadini. C'è un aumento dei nuovi poveri, l'idea di una divaricazione dell'Italia. Si pensa sempre a divaricazione nord-sud, ma anche in aree sviluppate c'è una povertà che è una povertà di ritorno sociale. E poi c'è un altro aspetto che può sembrare paradossale. La povertà alimentare provoca obesità, una delle piaghe dei paesi sviluppati. Gli alimenti sani, si sa, costano cari e chi non può permetterseli si consola con cibo spazzatura. La crisi a volte, invece di far tirare la cinghia, la allenta, ma non c'è da rallegrarsene. In questi giorni sono anche riaffiorati quasi d'improvviso un paio di misteri d'Italia o comunque di fatti controversi del nostro paese. Naturalmente la lista è lunghissima, ne abbiamo purtroppo una ricca tradizione in questo senso. Segnalo la trasmissione di giovedì di Anno Zero di Santoro, davvero bella, incentrata su una vera inchiesta con interviste importanti, che ha riproposto il clima delicatissimo dell'Italia del 92, gli intrecci tra mafia e Stato. Siamo ai tempi degli attentati di Falcone e Borsellino, addirittura si parla di una trattativa tra parti, apparati dello Stato e la mafia dall'altra parte. E invece mercoledì a Genova arriva una sentenza importante sul G8 del 2001, quello poi segnato dalla morte di Carlo Giuliani, ma non solo. Sentiamo il corrispondente Andrea Ferro. Per i PM Zucca e Cardona Albini, l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro e l'ex dirigente della Digos di Genova Spartaco Mortola indussero l'ex questore del capoluogo ligure Francesco Colucci a testimoniare il falso al processo per il blitz alla scuola Diaz allo scopo di scagionare lo stesso De Gennaro da ogni responsabilità sull'irruzione. Per questo i due PM avevano chiesto la sua condanna a 2 anni di reclusione, 1 anno e 4 mesi invece era la pena invocata per Mortola. Stamane il GUP Silvia Carpanini ha smontato la tesi della procura. De Gennaro, oggi ai vertici del BIS, e Mortola, attuale vicequestore vicario a Torino, sono stati assolti per non aver commesso il fatto. I loro legali avevano chiesto ed ottenuto il rito abbreviato. Diversa la scelta difensiva di Colucci, imputato per falsa testimonianza, che contestualmente alla sentenza stamane è stato rinviato a giudizio. La Camera di Consiglio è durata un quarto d'ora e si è svolta a porte chiuse. De Gennaro non era presente in aula. Soddisfazione da parte del collegio difensivo dei due imputati, per i quali è stata riconosciuta l'estraneità e l'assenza, dicono, di qualunque interesse o movente per De Gennaro di fare modificare la versione dei fatti di Colucci. A 2 giorni di distanza dalla soluzione di Gianni De Gennaro sono arrivate altre sentenze durissime, in questo caso sempre per i fatti legati al G8 di Genova del 2001, e sono arrivate pesanti condanne per 10 presunti black bloc, addirittura 98 anni e 9 mesi di reclusione in tutto per gli accusati. Pochi minuti fa ho citato Santoro, la bella trasmissione di giovedì di Anno Zero legata alle inchieste di mafia. Uno dei suoi protagonisti è stato indubbiamente il collega, il giornalista, amico in fondo da tanti anni, compagno di battaglia di Santoro, Sandro Ruotolo. In settimana arriva addirittura una minaccia di morte per Ruotolo. Sentiamo i dettagli con Paolo Piacenza. Non è la minaccia di un mitomane. Questa al momento è una delle poche certezze sulla lettera con cui Sandro Ruotolo, noto giornalista Rai, principale collaboratore di Michele Santoro ad Anno Zero, è stato minacciato di morte insieme alla sua famiglia. Sulla vicenda indaga la Digos e Ruotolo, per rispetto del lavoro degli inquirenti, non fornisce troppi particolari, ma spiega che alcuni elementi confermano la serie della minaccia, che per di più sarebbe rivolta anche verso un altro obiettivo. Sono sicuramente stato pedinato e sorvegliato, perché ci sono dei particolari nella lettera che è anche giusto che si sappia, che c'è un altro obiettivo contro cui ovviamente ci sono minacce di morte, eccetera. Ruotolo inoltre conferma che la vicenda è recente, un quadro inquietante in cui appare assai improbabile l'ipotesi di un collegamento con le inchieste del giornalista sulla camorra. Sicura invece è la reazione di Ruotolo. Certo, non è piacevole, però non passa l'intimidazione. Io continuerò a fare questo mestiere perché è giusto che la gente venga informata e che bisogna, non si può cedere. L'ottavo giorno. Sono stati giorni durissimi a Messina dopo l'alluvione della settimana scorsa. È proseguita fatalmente la conta dei morti, unita peraltro al lavoro straordinario di volontari e della protezione civile. Oggi si svolgono i funerali di Stato ed è giornata di lutto nazionale. Le vittime finora recuperate sono arrivate purtroppo alla triste quota di 28. Ci sono stati tantissimi servizi, tantissime cronache dalla Sicilia in questa settimana. Ne abbiamo pescata una a caso nel cesto dei GR di Radio 24. Sentiamo da Messina il servizio di Nadia Maio ieri mattina alle 7. Ammonterebbero a 40 milioni di euro al momento i fondi stanziati per l'emergenza Messina. Ai 20 della regione siciliana si aggiungono quelli statali previsti da un'ordinanza di protezione civile. Si moltiplicano intanto le iniziative di solidarietà. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, anche i principali operatori di telefonia mobile nazionale hanno attivato un numero comune per la raccolta fondi. A darne notizie è stato il sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, che si è detto soddisfatto dell'iniziativa. Un gesto semplice e rapido, l'invio di un SMS al numero 48580 consentirà agli utenti di donare 1 euro con destinazione vincolata. In città intanto si organizzano i solenni funerali di Stato, un maxi schermo a Piazza Duomo consentirà agli sfollati di seguire il rito funebre. Annunciata la presenza del Presidente del Senato Renato Schifani e dello stesso Premier Silvio Berlusconi. La radio, l'ho anche ricordato prima, ha documentato ampiamente la tragedia di Messina e anche oggi seguirà i funerali di Stato. Io preferisco in questo caso, in questo contesto dell'ottavo giorno, soffermarmi soprattutto su due aspetti che possiamo definire in parte laterali, ma per molti aspetti anche emblematici, che sono entrati in gioco in questi giorni. Prima di tutto, per esempio, c'è l'eterna questione del ponte sullo Stretto, che è tornata d'attualità tra sostenitori e critici in questi giorni, naturalmente collegata con l'alluvione di Messina. Ritorna l'eterna questione: questo ponte sa da fa o non sa da fa? Sentiamo il dibattito politico di lunedì con Vincenzo Miglietta. Fronti contrapposti e in alcuni casi trasversali, quelli a favore o contro il ponte di Messina. Dopo quella che da tutti viene definita come una tragedia annunciata, si apre la discussione sull'opera del millennio che prende il nome della provincia siciliana. È necessario usare i soldi previsti per il ponte per mettere in sicurezza la zona disastrata? Attaccano opposizione ed associazioni ambientaliste. Parlare oggi di costruzione del ponte di Messina, spiegano dal Partito Democratico, è quantomeno fuori luogo. Dal governo tuttavia è lo stesso ministro per le infrastrutture Matteoli a garantire si va avanti con il progetto, anche perché, spiega il ministro, l'opera si costruisce attraverso il project financing, lo costruiscono quindi i privati, i soldi non si possono dunque dirottare sul territorio. Inoltre, dice ancora Matteoli, i primi lavori sono opere collaterali che, se si fossero già fatte, avrebbero consentito di ridurre gli effetti del disastro. Non è il momento delle polemiche, il ponte non c'entra nulla, fa capire intanto il presidente del Senato Schifani. Dagli imprenditori tuttavia arriva un segnale preciso in materia di infrastrutture, spiega la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Il ponte sullo Stretto di Messina non è la priorità, perché l'Italia ha bisogno prima di tutto di mettere in sicurezza il territorio. Una delle cose più odiose dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di molti in questi giorni, collegato alla tragedia di Messina, è stata la lentezza con cui si è arrivati a sancire d'ufficio il lutto nazionale. Poi ci sono state tantissime polemiche sull'abusivismo edilizio, su quello che è considerato il tradizionale lassismo del Sud Italia, per esempio polemiche che non sono emerse così violentemente a caldo nei giorni, per esempio, del terremoto dell'Aquila. Forse è un sintomo, forse è un riflesso incondizionato, anche la scelta molto discutibile, molto discussa, che a suo tempo la settimana scorsa ha fatto la Lega Calcio, di far osservare soltanto nelle partite in cui erano coinvolte squadre siciliane un minuto di silenzio. Direi che questo è stato un errore gravissimo. Sentiamo i dettagli in cronaca con Dario Ricci. Che la decisione avrebbe potuto suscitare più di una perplessità lo si era capito fin da venerdì, quando i vertici del calcio italiano si erano messi intorno a un tavolo per trovare il modo migliore di rendere omaggio alle vittime di Messina. Ma la scelta di Federcalcio e Legacalcio di far celebrare un minuto di silenzio solo nelle gare dalla Serie A ai dilettanti che vedevano coinvolti club siciliani ha provocato la dura reazione delle autorità politiche dell'isola. Duro, infatti, l'attacco di Raffaele Lombardo, governatore siciliano fresco di nomina come commissario straordinario per l'emergenza messinese. Perché non un minuto di silenzio su tutti i campi? Forse le vittime di Giampilieri e Scaletta Zanclea non sono italiane a pieno titolo? Si chiede provocatoriamente il governatore. E il segretario regionale dell'UDC, Saverio Romano, parla di pagina vergognosa per la Lega e per tutto il calcio. Tra tante polemiche, un gesto di buonsenso è arrivato da Bergamo. In campo c'erano Atalanta e Milan, ma l'arbitro Rocchi, malgrado le disposizioni impartite, ha fatto comunque osservare un minuto di silenzio per le vittime della tragedia messinese, prima di fischiare il via della gara. Se non altro, a conclusione di questa storia, il presidente della Federazione Calcio Abete si è scusato per l'errore, per l'incidente. Giustamente poi Dario Ricci ha ricordato che comunque a Bergamo, prima di Atalanta-Milan, è stato osservato il minuto di silenzio, anche se il protocollo non lo prevedeva. Abbiamo ancora molto in scaletta, quindi proviamo a correre. Dobbiamo sicuramente parlare di sport, poi nell'ultima parte avremo il Nobel per la pace assegnato ad Obama, però insomma non ci dimentichiamo anche di quello che è successo in questi giorni nella nostra Europa. Per esempio, la settimana scorsa l'Irlanda ha detto sì al secondo tentativo, al secondo referendum al Trattato di Lisbona, mentre nelle stesse ore la Grecia è andata al voto e Atene è diventata una sorta di oasi protetta, progressista, in un'Europa che va sempre più a destra. Sentiamo il commento di lunedì dell'inviato Vittorio Darold. La Grecia, in controtendenza rispetto al resto d'Europa, ha svolta a sinistra. Il Partito Socialista, guidato da Giorgio Papandreou, ha vinto con 159 deputati su 300 la maggioranza assoluta e può quindi governare da solo il Paese. Papandreou ha saputo convincere gli elettori di centro che era ora di cambiare per affrontare la grave crisi economica. La sinistra greca vince con una leadership forte, riconosciuta da tutto il partito, un programma di spesa sociale, rilancio dei lavori pubblici e un aumento dei salari. Nessuna novità rispetto alle politiche tradizionali della sinistra, solo più coerenza e credibilità. Forse è questa la lezione che arriva da Atene per la sinistra europea. E veniamo allo sport, tralasciamo in questi minuti gli sport maggiori, il calcio, la Formula 1, le moto, insomma, che hanno tanti spazi abitualmente durante l'anno, perché in questi giorni c'è stata la riscossa degli sport che ingiustamente vengono chiamati minori. Comincerei dalla scherma, perché nei mondiali in Turchia di questi giorni l'Italia ha brillato, è stata prima nel medagliere, sono arrivate tantissime medaglie, non soltanto d'oro, però voglio segnalare il trionfo soprattutto nelle competizioni a squadre, nel fioretto maschile e femminile, la spada femminile. La notizia più clamorosa è stata la sconfitta della Vezzali dopo anni di vittoria, ma insomma rimane straordinaria la nostra più importante fiorettista. In assoluto direi invece che il più grande, il principale protagonista di questi giorni per i colori azzurri è stato sicuramente Andrea Baldini, oro nel fioretto sia individuale sia a squadre. Baldini, che lo ricordo, da super favorito a Pechino alle Olimpiadi dell'anno scorso, non poté partecipare perché venne squalificato proprio poco prima per doping tra mille polemiche. Sentiamo l'intervista a Baldini che ha fatto mercoledì Dario Ricci. Chiudere così la stagione con la vittoria agli europei, ai mondiali, la Coppa del Mondo, è veramente un motivo di grande soddisfazione, senza stare troppo a compararla, ecco, con quello che è successo alla vigilia di Pechino. Comunque l'Olimpiade per uno schermidore è il massimo, però va bene così, insomma, Londra alla fine non è così lontana. Che effetto ti fa vincere quest'oro e condividerlo proprio anche con Andrea Cassaras, quell'Andrea che è stata un po' all'origine di questa mancata tua partecipazione olimpica? Beh, con Andrea da quando sono rientrato a maggio siamo riusciti a vincere tutte le gare a squadre disputate, 4 di Coppa, gli europei, i mondiali, quindi segno che anche se magari non c'è questa coesione nel gruppo, le individualità sono talmente forti che comunque riusciamo a fare la differenza, quindi per ora va bene così, senza starci a fasciare troppo la testa, finché si vince andiamo avanti. Protagonista di questi giorni è stata anche la pallavolo femminile, perché in Polonia agli europei l'Italia si è confermata campione per la seconda volta, infliggendo un pesantissimo 3-0 all'Olanda. È la seconda vittoria consecutiva, e allora dalla voce di Andrea Baldini ci spostiamo a quella dell'allenatore dell'italiana delle azzurre Massimo Barbolini, sempre ai microfoni del nostro GR Sport. Ma le sensazioni sono eccezionali, vincere è difficile e confermarsi è difficilissimo, per cui sono veramente orgoglioso del gruppo di ragazze che alleno, perché hanno fatto una cosa fantastica vincendo un titolo europeo, dominando e vincendo una finale in maniera, giocando la partita più bella dell'europeo. Quanto pesa questo successo in un momento in cui gli sport di squadra italiani stanno soffrendo come forse mai in passato? Se pesa tanto mi fa piacere, perché purtroppo è un momento così, penso che non ci sia nessuna crisi particolare, penso che sia un momento così, delle volte capitano delle annate in cui va tutto bene, questa è stata un'annata un pochino storta, forse anche cambi generazionali, anche un po' di sfortuna, per cui fa parte del gioco. È ovvio, da parte mia sono molto contento che con la nostra nazionale siamo riusciti a ottenere un risultato così bello. L'ho detto anche prima, per una volta non parliamo di calcio, anche se ricordo che nel giro di poche ore potremmo essere qualificati ufficialmente per i mondiali del Sudafrica dell'anno prossimo. Parliamo invece di nuoto, uno sport che negli ultimi anni ci ha abituato bene, benissimo, anche ai recenti mondiali di Roma, grazie soprattutto alle imprese di Federica Pellegrini. Però c'è un però, perché anche Roma, che pure aveva fatto la sua bella figura d'agosto per l'organizzazione dei mondiali, è finita in un calderone molto pericoloso. Ci sono state delle indagini, quindi dei colpi di scena giudiziari, che hanno davvero scioccato tutti in questi giorni. Sentiamo Dario Ricci. Non solo le medaglie di Federica Pellegrini e Alessia Filippi. I mondiali di nuoto di Roma 2009 lasciano in eredità anche un passivo di bilancio di circa 6 milioni di euro e l'inchiesta su presunti abusi edilizi della Procura di Roma. Piscine, foresterie, parcheggi, spogliatoie e palestre e altre strutture edificate in violazione delle norme paesaggistiche, urbanistiche e quindi ritenute abusive. Tutte realizzate alla vigilia dei mondiali in 11 circoli sportivi romani, e ora poste sotto sequestro. 30 gli indagati, tra cui il commissario delegato per i mondiali di nuoto Claudio Rinaldi e Giovanni Malagò, presidente del comitato organizzatore dei mondiali e del circolo canottiere Aniene e responsabile amministrativo dell'Acqua Aniene, uno degli impianti sottoposti a sequestro. Non capisco né la motivazione né perché, sembra onestamente una cosa del tutto incomprensibile e illogica. Da ricordare che già prima dei mondiali la Procura di Roma aveva disposto il sequestro di alcune strutture, poi diventato definitivo dal 15 settembre dopo l'uso concesso per i mondiali di nuoto in altri 4 circoli capitolini. L'ottavo giorno. E chiudiamo questa nostra puntata con lo spettacolo, chiamiamolo così, dei Nobel, perché come ogni anno ad ottobre arriva questa lunga teoria, questa lunga schiera di vincitori, manca all'appello soltanto il Nobel per l'economia che verrà assegnato nei prossimi giorni. Cominciamo dall'ultimo Nobel assegnato in ordine cronologico, che è sicuramente quello che ha fatto e farà più discutere, ovvero il Nobel per la pace, ieri assegnato a Barack Obama, il presidente americano. Tra l'altro, coincidenza curiosa, nella settimana in cui non ha voluto incontrare il Dalai Lama, chissà. Sentiamo il commento a caldo di Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, sul premio dato ad Obama. Dopo le difficoltà, una buona, ottima notizia per Barack Obama, il premio Nobel per la pace, diciamolo a sorpresa e inatteso persino alla Casa Bianca, riporta il presidente americano al centro dell'attenzione con una forte energia positiva. Quell'energia positiva che ha sempre caratterizzato l'immagine e il messaggio di Obama e che con la presidenza è poi riuscito a tradurre in azione. In effetti le motivazioni del premio sono reali, la deviazione dall'unilateralismo verso il multilateralismo, il recupero forte del ruolo dell'ONU, l'avvio solenne proprio al Consiglio di sicurezza di un processo per avere un mondo senza armi nucleari, l'incontro sempre all'ONU con Netanyahu e Abu Mazen e l'avvio di una nuova fase nel processo di pace in Medio Oriente, la mano tesa all'Iran, nonostante le mille provocazioni di Ahmadinejad, che ha già portato ai risultati incoraggianti del vertice di Ginevra di una settimana fa. Tutto vero, ma anche tutto da fare. Questo premio Nobel rischia di essere un premio alle intenzioni, una cambiale in bianco, visto che i processi sono appena avviati, ma è anche un potente endorsement, un appoggio forte. Prima di lui solo un altro presidente americano ha avuto il Nobel per la pace quando era alla Casa Bianca, Teddy Roosevelt, e parliamo del 1906. Prendiamo dunque questo premio come un appoggio benvenuto per aumentare la forza e la credibilità di questo giovane presidente quando la traduzione dell'idealismo in pratica incontrerà gli inevitabili scogli. Saluto in collegamento Armando Massarenti, filosofo, epistemologo, responsabile della pagina Scienza e Filosofia del Domenicale del Sole 24 Ore. Buongiorno Armando. Buongiorno. Allora Armando, credo che commentare il Nobel alla pace di Obama non sia esattamente il tuo campo di pertinenza. Tra poco invece parleremo dei Nobel che conosci meglio, cioè quelli scientifici, medicina, chimica e fisica, assegnati in questi giorni. Però direi che l'assegnazione ad Obama di questo Nobel alla pace, insieme anche a quello piuttosto bizzarro alla sconosciuta scrittrice Herta Müller per la letteratura, ci può far ragionare sui criteri dell'Accademia di Svezia, su come vengono assegnati questi premi. Tu che opinione hai a riguardo? Ma io trovo che sì, certo, ci sono dei premi Nobel che magari sono controversi qualche volta, ma direi che quest'anno le cose sono andate piuttosto bene, a parte il Nobel per la letteratura, che veramente è stato abbastanza a sorpresa ovviamente anche quello di Obama, ma se ne capiscono bene le motivazioni, come ci ha detto poco fa Platero. Quelli per la medicina, per la chimica, per la fisica sono dei Nobel interessanti. Devo dire che c'è quello della medicina che in qualche maniera ha a che fare con Obama, perché la Elizabeth Blackburn, una delle vincitrici, poi c'è anche una sua allieva peraltro, la Carol Greider, e insieme all'altro che si chiama Jack Zostock, hanno intanto, vabbè, il campo è molto interessante, quello dei telomeri, della telomerasi, cioè quello che insomma ci permetterà di capire, ci sta già permettendo di capire i meccanismi dell'invecchiamento e quindi insomma come invecchiare meglio e come essere più giovani a lungo. Ma a parte queste applicazioni, quella è una ricerca di base, e lei è stata coinvolta dalla precedente presidenza americana per una consulta della bioetica da parte di Bush ed è stata licenziata in tronco su una questione molto delicata. Lei, che non è una studiosa delle, come dice anche la motivazione del Nobel, non è una studiosa delle cellule staminali e tantomeno delle staminali embrionali, aveva osato in quella commissione dire che si faceva della disinformazione, cioè si partiva da questioni ideologiche e bioetiche per arrivare subito a delle conclusioni, quindi ai divieti famosi di Bush. E Obama che cosa ha fatto? Allora, questo è certo un premio Nobel alle intenzioni, che diceva Platero, una sorta di Nobel preventivo, ma alcune cose le ha fatte proprio in questo campo, cioè lui è appena arrivato alla Casa Bianca ha subito tolto i divieti di Bush sulle cellule staminali embrionali, e in questo è in perfetta linea con ciò che molto coraggiosamente peraltro aveva fatto la Blackmore, gli era costato un licenziamento da parte di Bush, poi aveva scritto tutto questo in un articolo che peraltro pubblicheremo domani sul Sole 24 Ore domenica, in un articolo proprio su bioetica e politica e sulle infiltrazioni. Ecco, mentre ecco, in Italia tra l'altro Armando, io naturalmente voglio ricordare anche ai nostri ascoltatori che tu sei ferratissimo sul tema perché hai anche scritto un libro, Staminali alle cellule etiche, tra virgolette, e i nemici della ricerca per Guanda. Mi sembra di capire quindi che ci siano due Nobel dentro la Casa Bianca o comunque nell'area dell'amministrazione Bush. Allora vorrei farti sentire, proprio che, visto che hai evocato il Nobel per la medicina, un intervento fatto il giorno dell'assegnazione del Nobel della medicina di Giuseppe Remuzzi, che è coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, l'intervista è di Nicoletta Carbone, e poi ragioniamo sulle parole di Remuzzi. C'è un'enzima telomerasi che protegge i cromosomi dall'accorciarsi. Quanto più un cromosoma ti si accorcia, tanto più la cellula invecchia e muore. Tanto più il cromosoma si allunga, tanto più la cellula è protetta dal morire. Quindi queste ricerche dove porteranno? Ma questa ricerca portano intanto a capire i meccanismi dell'invecchiamento, a capire i meccanismi della morte cellulare, a proteggere in un certo senso le cellule dall'invecchiamento precoce che è caratteristico di tante malattie, e può portare anche ai tumori, perché paradossalmente nelle cellule dei tumori questi telomeri sono più lunghi, e quindi telometri lunghi vuol dire che queste cellule non muoiono, ma nel caso dei tumori noi avremmo piacere invece che queste cellule morissero. Ecco, queste ricerche su questo enzima telomerasi che governa le dimensioni di questo cappuccio cellulare da cui dipende quanto durerà questa cellula sono fondamentali per quello che impareremo nei prossimi anni sui tumori e anche per, chissà, per invecchiare meglio. Siamo sempre collegati con Armando Massarenti, responsabile della pagina Scienza e Filosofia del Domenicale del Sole 24 Ore. Naturalmente hai facoltà di aggiungere cose se servono su questo Nobel della medicina, però vorrei anche, in un minuto e mezzo che abbiamo ancora a disposizione, spendere un paio di parole sugli altri due Nobel scientifici, quello per la fisica e quello per la chimica. A te Armando. Guarda, io direi questo, che questo Nobel per la medicina è molto importante perché premia la ricerca di base sostanzialmente, questo vale anche per le cellule staminali embrionali, l'ho detto benissimo proprio Obama, noi dobbiamo fare ricerca su queste cose per il puro piacere, per quanto sarà utile la conoscenza, e poi le applicazioni verranno. Il Nobel per la fisica invece è tutto l'opposto, è stato dato non a degli scienziati che fanno ricerca di base, ma a degli importantissimi ingegneri, cioè nel senso proprio, nel senso anche nobile del termine, che hanno inventato, che lavorano nel campo delle fibre ottiche, dei semiconduttori, che hanno inventato questo sistema CCD, che è un sistema portentoso di imaging, scienza applicata, anzi applicatissima, ma che peraltro è interessante che dà risultati bellissimi anche per la ricerca, da strumenti bellissimi per la ricerca pura, perché per esempio Hubble ci dà queste immagini meravigliose da alcuni anni proprio grazie a questa loro invenzione. E quello della chimica è interessante perché anche qui siamo nel piano della con la ricerca sui ribosomi, sono praticamente le strutture cellulari che fabbricano le proteine, siamo nel campo dell'RNA, cioè del modo in cui si prendono le informazioni dal DNA per appunto farne delle proteine, anche questo ricerca pura, è interessante che è per la chimica ma suona molto come se fosse per la medicina, ecco, anche questa è una caratteristica interessante dei Nobel degli ultimi anni, che le discipline si intrecciano tra di loro, e appunto una scoperta viene fatta in chimica poi in realtà è utilissima nel campo medico. Io sottolineerei questo, insomma, che forse nei commenti che sono stati fatti in questi giorni non si è sottolineato abbastanza il fatto che comunque c'è un occhio molto importante alla conoscenza. È un premio Nobel complessivamente direi che ha una sua forte valenza etica per i motivi che dicevo prima, cioè di un rovesciamento di quelle finte questioni etiche che venivano poste nell'era Bush. Qui Obama addirittura vince un premio Nobel per la pace. Io non escluderei anche appunto di mettere nelle motivazioni il fatto che ha delle buone competenze etiche in generale questo presidente. I suoi discorsi, questo in particolare sulla scienza, sulla ricerca, è un discorso molto ben argomentato che tiene conto anche di tutte le possibili delle possibili strumentalizzazioni. Sono quelle che appunto la Blackmon lamenta in questo articolo. Dice si usa strumentalmente, per esempio, che le cellule staminali adulte si dice che farebbero addirittura miracoli. Lei lo dice anche nell'articolo, lo dicevo anche nel mio libro, lo ha detto anche Obama. E quindi è un premio insomma in cui si rimettono anche un po' di cose a posto dal punto di vista del modo di atteggiarci nei confronti dei valori della conoscenza e appunto per un mondo che speriamo appunto sia Obama certo avrà molto da fare, ma insomma speriamo che lo faccia impostando le cose come sembra aver fatto finora nel modo giusto, anche proprio dal punto di vista della Armando mi associo naturalmente agli auspici, anche se di solito voglio dire la mia opinione, insomma i Nobel vengono dati a fine carriera, non proprio all'inizio, però insomma speriamo che sia un premio incoraggiante. Io ringrazio Armando Massarenti, filosofo, ricordo, epistemologo e responsabile della pagina Scienza e Filosofia del Domenicale del Sole 24 Ore. Ha aperto anche uno squarcio interessante su questi Nobel, abbiamo fatto una connessione tra Obama e i Nobel più prettamente scientifici. Noi siamo alla fine, quindi non mi resta che ringraziare Valerio Rocchetti in regia, ricordarvi la mail ottavogiorno@radio24.it. Io vi rinnovo l'appuntamento a sabato prossimo alle 9 oppure in replica alle 23, naturalmente sempre su Radio 24.